Italia in controluce. Ultimo giorno di questo 2010, la prima edizione di Italia in controluce che racconta tutti i giorni la politica, la cronaca italiana, il costume, la cultura e lo spettacolo. Buongiorno da Daniele Biacchissi. Questa puntata è interamente dedicata al ritorno della violenza dopo gli incidenti di Roma. E ricordo, torna a Genova 2001. Il prossimo anno, infatti, il 2011, ricorre il decennale dei fatti del G8. Il reportage di Cristina Carpinelli. Manu Chao, senza quasi volerlo, era finito, tritato, dentro una storia incredibile. C'erano i movimenti e c'era il suo disco appena uscito. I temi toccati dal suo album erano gli stessi, che il movimento, così si chiamava, voleva portare a conoscenza di tutti. C'era la terra da preservare, un tempo nuovo da scoprire, una condivisione di spazio, tempo, oggetti. Tutto quello che oggi abbiamo individuato e chiamato all'inglese co-housing, co-working, movimento dell'acqua, movimento di risparmiatori. Gli stessi flash mob erano i ragazzi del movimento No Global ad averli tirati fuori dall'album dei ricordi. Idee, creatività, colori, voglia di cambiare il mondo dal basso. Era stato questo Genova all'inizio. Poi, nella memoria di tutti è rimasto il rumore della violenza, la paura, il segno che lascia un ragazzo morto in piazza. Oggi che si comincia a preparare il decennale di Genova, stiamo vedendo qualcosa muoversi. Questa volta non è più Genova, ma è Roma, e i movimenti non hanno più nomi come Attac, ma sono solo universitari, gente contro la discarica di Terzigno, i terremotati dell'Aquila. È come se le istanze della gente fossero entrate nel movimento, mentre prima succedeva il contrario, il movimento anticipava quello che poi sarebbe accaduto. Cosa resta e cosa accadrà? Nessuno lo potrà dire, però un giro di pensieri fa bene a tutti. Cominciamo da Gianni Paoletti del movimento Attac Bologna. Era a Genova nel 2001 ed è stato in questi giorni all'interno dei movimenti universitari di Roma. Ciò che era nato allora in termini organizzativi non è rimasto molto, però è rimasto molto della discussione e delle idee, per cui non c'è un collegamento diretto in termini di continuità organizzativa anche rispetto alla, adesso non parlo degli scontri, parlo delle iniziative, per esempio di critica alla legge Gelmini, ma io ci vedo molto dei contenuti di allora. In questo senso c'è una continuità. Le manifestazioni di Roma, il movimento universitario e di cittadini di oggi, che tipo di futuro potranno avere? Che analisi si può fare? Ancora Paoletti di Attac Bologna. Che si è creata sicuramente una frattura pesante, quindi la mia impressione, e anche per averlo visto, che continuerà una discussione, che dove andrà a finire non lo so, questo dipenderà molto dal contesto. Da parte del governo c'è la speranza che vincano i violenti, perché così c'è lo scontro fisico, e lo scontro fisico si sa già come va a finire, insomma, già vissuto, si sa già come va a finire, quindi non ha, sia dal punto di vista politico, prima ancora dal punto di vista politico che dal punto di vista materiale, può finire solo con una sconfitta. Loro sperano questo, io spero delle cose diverse. Non ho visto nessuno del governo che si è dissociato da Gasparri. O c'è una differenziazione, un'apertura di discussione seria, oppure è chiaro che ognuno sta dalla propria parte. Poi dalla propria parte si deve essere la capacità di distinguere, di fare una discussione politica, non farsi prendere dalle emotività. Però è peggio lo studente che non dice condanna la violenza, che peraltro ci sono molte organizzazioni studentesche che l'hanno fatto, oppure è peggio il ministro dell'interno che non si dissocia dal capogruppo che dice ci vogliono arresti preventivi, che sinceramente è molto peggio che l'uso dei manganelli. E questi ragazzi, chi sono e cosa stanno rappresentando? Un'idea di futuro o una rimostranza per il passato? Vittorio Agnoletto. Loro si battono per contro una società che a loro non offre assolutamente nessun futuro. È la generazione dei precari, è la generazione che assisterà alla distruzione del welfare state. E l'accusa di andare verso una forma di società totalmente precarizzata era una delle critiche che noi facevamo già 10 anni fa. Sono la generazione che paga una crisi economica e finanziaria che è il risultato di questo sviluppo. Per cui c'è, non è solo una forma di solidarietà, ma è una condivisione dei loro obiettivi.